Eccola. Ciao, qui, questa è la sua buonasera. Voce. Buonasera. E perciò sappiamo che si parla di sentimento, di psicologia, di tutte queste sfere. Mm-hmm. E Laura Voltolina. Ciao! Normalmente non sono un'ospitessa, normalmente io sono in veste W, infatti. E se devo dire la verità, Coxo difficilmente ci ha visti contemporaneamente. Siamo come Batman. È successo una volta in Via del Pratello, vero? Quella volta lì. Quindi ennesimamente. Ciao, comunque, sono l'ospitessa. Ciao. E comunque adesso sappiamo che no, io e Laura Voltolina non siamo la stessa persona. Sarà contento Giffo a questo punto che ti ha messaggiato. Ma chissà, per mesi. Chissà. Ma non è ancora finita, perché in realtà abbiamo anche in arrivo Roberta Ricci, sempre per parlare di una pubblicazione importantissima. Sì, che secondo me continua a suonare. Non ho capito se è fuori che aspetta oppure comunque. Ci sta ascoltando. Il cui titolo è Amori 4.0. Forse però poi la riprendo Viaggio meglio come mondo delle relazioni. Esatto. E poi abbiamo anche un esemplare della quota azzurra del libro, certo. Che sono pochi, Vinicio però, Berti, pochi, che è uno degli autori. Salve a tutti. E adesso che vi ho fatto sentire le voci dei presenti, vado a vedere se è arrivata Roberta. Tu vai a vedere se è andata. Vi lascio un attimo, attorno. Allora, attenzione, che se mi lasci così, io ti ho visto bene. Stava per strappare una cuffia. Io invece, per metterci a nostro agio, faccio una cosa che è un po' a disagio, ovvero presento una cantante che si autopresenta, che dice: io mi chiamo Veronica Fragoso, sono spagnola di Madrid, ma vivo a Toledo, ho 33 anni e da quando ho 15 anni amo la musica degli anni 60. A 15 anni scopro i Beatles, mi richiudo ogni giorno a casa ascoltando le canzoni, sola e senza amici. Ho un sacco di tempo per imparare a suonare diversi strumenti e diverse lingue che in seguito mi servono per cantare in altre lingue come l'italiano. Per cui adesso vi faccio sentire. C'è Fedora che intanto è arrivata Roberta. Un applauso a Roberta. Intanto adesso per metterla a suo agio, esatto. Ascoltiamo. Ti sei persa Veronica Fragoso. Senti qua. Regina del regno que un giorno soñai. Tu, mio caro vecchio angelo, tu sei stato il castello d'un regno e neppure lo sai. Un regno con un solo soldato che cercava le stelle e voleva cacciarle assassate, un regno che ogni giorno viveva di mille e mille e mille. C'era una volta, se non mi avessero detto mai che le fiabe sono storie non vere, ora la io sarei. Creatività generica. Ma Stefano, mi ricordavo un sacco quelle attrici dei film francesi anni 60. Vero? Che tanto in tanto cantavano. Esatto. Brigitte Bardot, tipo, eh? Tipo così. Ma infatti, no. Cioè, quando non posso avere qualcuno che canta in studio dal vivo, così un po' alla. Allora. Chiedi di registrare nel bagno. Esatto. li vado a prendere su Instagram. Oh, meraviglia! Instagram, questo grande mio sconosciuto. Comunque, tornando a noi, il 286esimo Coxo finalmente è a pieno con tutti i suoi ospiti, perché sì, è arrivata Roberta Ricci. Grazie. Che insieme a Letizia Rotolo Roberta Ricci è autrice. Letizia Rotolo quindi è curatrice del libro che presenteremo stasera, Amori 4.0, Viaggio nel mondo delle relazioni, e abbiamo la fortuna di avere insieme a noi due degli autori che hanno partecipato, che in realtà gli autori in tutto sono tantissimi. Sono 38 autori, principalmente psicologi, psicoterapeuti, però ci sono anche medici, giornalisti, avvocati, insomma molti rappresentanti. Qualunque problema siete coperti. E molti sono anche bolognesi, abbiamo una bella gamma. E però questo sarà un libro che da Bologna andrà alla conquista di tutto lo stivale e oltre, dico bene? Di tutto lo stivale, perché la nostra casa editrice di Roma è Alpes. Abbiamo una presentazione adesso il 29 novembre presso una location molto importante. C'è già stata a Bologna, comunque insomma ne abbiamo già fatte tante, sta andando molto bene. Ecco. Il libro è uscito a giugno e sta avendo un buon successo. Allora, prima di partire anche per le prossime tappe, io direi rimaniamo un pochino qui, attaccate alle pagine, al cartaceo, al libro. Ci vuoi raccontare un po' come nasce questo progetto? Allora, il progetto nasce nel 2018. Io ed Amalia Prunotto di Padova, siamo due colleghe che ci conosciamo da più di 20 anni, assieme a poi a un altro gruppo di colleghe ci scriviamo su un gruppo di Facebook, non voglio citarlo per la pubblicità, e il giorno di diciamo solo il cognome psicocose. E allora in questo un giorno dell'Epifania, avendo questo, ci parlavamo spesso dell'idea di fare qualcosa insieme, un po' di autori, sui temi delle nuove relazioni, sui temi dell'amore funzionale e disfunzionali, secondo un po' queste nuove tendenze come l'amore digitale, gli amori, la dipendenza affettiva, narcisismo, tematiche di cui si sente parlare tanto, ma cui magari sono anche un po' abusate, ma non si conosce proprio bene. Sì, perché di fatto la società evolve, evolve anche il modo di relazionarsi, di conoscerci, gioco forza, entrano in campo temi diversi, modalità diverse, che molto spesso vengono anche subite in una fase di transizione. Certo. Ed ecco magari che tramite voi c'è qualche modo per conoscere un po' meglio la questione e quindi riuscire a trovare un affaccio più umano rispetto a tutte queste... Un affaccio più umano, ma sì, un affaccio anche un po' divulgativo e un po' scientifico. Che ci piace tanto! Quindi articoli, contributi un po' scientifici con autori anche importanti del territorio italiano, ma anche un po' divulgativi, racconti, e quindi che fanno un caleidoscopio della visione dell'amore nel terzo millennio, con interviste anche sulla sessualità, su com'è l'uomo, la figura maschile oggi e quali sono le sue ferite, ad esempio il lutto nell'amore, le separazioni. Ad esempio una cosa che mi interessa abbastanza è il lutto dell'animale domestico. Sto portando avanti il 20 di novembre a Mediateca farò una conferenza gratuita su Ci passerai i link, li pubblicheremo sul blog. I modelli, l'amore digitale è una parte molto importante, no? L'amore virtuale e l'educazione anche affettiva. E tematiche naturalmente molto interessanti e molto attuali sono ad esempio quelle del ghosting, del poliamore, sai cos'è il ghosting? Ghosting, cos'è? Aspetta, abbiamo una proposta. È quando uno scompare nel nulla. Sì. Bravo, fantasma. Non ti dice niente, mi stai antipatica, non ti voglio più, ti blocca tutto e ciao. Fai no contact. Esatto. Esatto. E poi magari ricompare, subisce. Sono sempre. Però se non tornano, poi alla fine ci si trova a dover giocare con una sorta di lutto, magari. Lutto, sì, di tematiche abbandoniche, insomma, di sensi di colpa, di tutta una serie di situazioni quando il problema fondamentalmente che ruota attorno a chi fa il ghosting è una problematica di attaccamento e di dipendenza. Allora abbiamo fatto un pochino una piccola approfondimento, sì. Però io ti chiederei un passo indietro e di vedere, vedo che ho la fortuna di avere sotto mano il libro e quindi sì. Di scorrere l'indice, noto delle macro aree attorno a cui sì. si agglomerano poi allora vari la prima macro area sono dei contributi come abbastanza preziosi di Roberto Cavaliere e di Maria Chiara Gritti, che sono due esponenti molto importanti a livello italiano, psicoterapeuti che hanno scritto diverse cose nel tema della dipendenza, e per Pietro Brunelli, che è, diciamo, anche lui un maestro delle tematiche legate al narcisismo e alla vampirizzazione. Poi abbiamo il corpo e l'amore e tutta quella che è la fisiopatologia della dipendenza affettiva. I modelli, che possono essere modelli psicanalitici, modello junghiano e quello lacaniano. Okay. Un tema molto, molto sviluppato è quello della sessualità, e appunto qua lì parliamo della poliamore, parliamo della dipendenza sessuale, abbiamo parlato anche dell'essere una coppia omosessuale nel 2019, un po' le tematiche che... La dipendenza affettiva. Ecco appunto. Dipendenza emotional dependency. Poi il ghosting, e poi c'è l'intervento dell'esperto legale che ci ha parlato molto approfonditamente del tema dello stalking. E poi appunto questo capitoletto sui problemi, no, che hanno i maschi dal punto di vista i maschi fragili, no? Le 12 ferite di Ercole l'avete intitolato. Sì. Che problemi hanno questi maschi? Devi leggere il libro. No, presenti esclusi, Sono ferite affettive, a volte il non sentirsi diciamo all'altezza di quelle che sono le pretese della società narcisistica, ad esempio. Narcisistica capitalistica. Capitalistica. E poi il tema molto importante sviluppato è quello dell'amore digitale. Ma sai che io ho trovato il mio amore online in una chat. Sì, e com'è andata? Ah, benissimo. Io non pensavo che esistesse un essere così perfetto per me. E lui pensa lo stesso di me. C'è andata bene. Follia 2. Sì, sì. Una follia 2. Sono bellissimi. Onestamente sono stupendi. Cioè, e poi di niente. Cioè, li guardi, sono belli. Infatti vogliamo far notare come l'amore digitale sono molto positivi. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Wow, cosa sei riuscito a strappare? Hai visto? Bravissimo. Grazie. No, volevo giusto un attimo rompervi i coglioni. No, ma ho visto che Roberta provava a... No, è che mi veniva da dire proprio questo, no? Che al giorno d'oggi non possiamo uscire dall'idea che internet, il web faccia parte della nostra vita. E nonostante questo ancora viene molto demonizzata l'idea di trovare il proprio compagno su una chat piuttosto che su Facebook, piuttosto che su altri canali. In realtà ci possono essere delle ottime occasioni, in fin dei conti siamo persone e le persone in quanto tali hanno bisogno di relazioni. Il dove si va a trovare la relazione, a cercare la relazione, diventa uno strumento. Anche perché hanno chiuso il chat, per cui doveva esatto. Il chat, poi i nativi digitali usano prevalentemente questo canale. Infatti volevo fare anche questa notazione, poi ditemi voi. Ho avuto la percezione che in realtà questa cosa del disagio nei confronti delle chat sia più per quelli che l'hanno vissuta in crescere questa digitalizzazione. In realtà i nativi, per loro è strano incontrare qualcuno di cui non conoscono prima il profilo Facebook, è come una carta d'identità Instagram, che ti mette in sicurezza. i nativi Facebook non ce l'hanno. Facebook è il social dei vecchi. Esatto. Grazie, ecco, appunto, fiera del 1900. Comunque una coppia su tre si forma, scritto anche qui nel libro, se non mi sbaglio, attraverso la conoscenza online. Ah, sì. Una coppia su tre. E quante invece si sfaldano per colpa delle conoscenze online? Tutte le altre. Una percentuale quindi sarà abbastanza importante, 30%. Okay. Allora ho aperto la parentesi, la richiudo. Anche perché adesso trovare qualcuno che ti ferma in giro è molto più difficile. Una volta si trovavano al secondo bar, qua, secondo me torniamo alle 12 ferite di Ercole, il povero Ercole che l'hanno ammazzato. L'abbiamo massacrato, ha smesso di ercolare in giro. Allora, però in realtà la tematica più diffusa è la vampirizzazione e il narcisismo. Quindi il narcisismo pervade, no, le relazioni, e l'altra faccia è la dipendenza affettiva. Io credo che qua i colleghi abbiano riflettuto su queste tematiche, mi piacerebbe sentire da loro cosa ne pensano. Eccoci, andiamo nel vivo. Va bene, allora comincia Vinicio Berti. Salve, sono Vinicio, salve a tutti. Allora, io ho scritto un articolo, un contributo. No, un attimo. Non ci sente. È l'ora. A due minuti, vai tranquillo. Sicuro? Vado? Sì, sono io alla regia. Ho contribuito perché ero in contatto con la Letizia che me l'aveva chiesto, con un piccolo lavoro su un caso clinico di narcisismo, però al di là del caso clinico in realtà mi sembra che fosse il dottor Lombardo, però non vorrei sbagliare, fece un articolo un paio di anni fa dove diceva che secondo lui ci sarebbe stato uno spostamento nelle patologie generali di comportamento fra la posizione borderline, forse qualcuno di voi saprà cosa vuol dire, cioè essere al limite, no? Sì. La nevrosi e la psicosi, e spostarsi più in tempi attuali sul narcisismo. Quindi dal borderline, dalla zona di grigia, in realtà più verso. Prima c'erano più borderline, secondo lui, adesso si sposterebbe più su delle posizioni narcisiste. Ma vogliamo un attimino, per chi non avesse mai questa bella parola che ricorda Narciso, un fiore, certo, in realtà allora, di cosa stiamo parlando? C'è una fontana a Firenze, alle Cascine, dove c'è Firenze, Narciso. Ritorna. Per associazione, dove c'è Narciso che si specchia nell'acqua. A livello mitologico sappiamo che Narciso è talmente innamorato della propria bellezza che non perdeva occasione per guardarsi, e una volta si sporse talmente tanto in uno specchio d'acqua che cadde dentro e morì. E così ci toccò di mettere sulle pubblicità. Esatto. Emilio, ci porti il Lambro Spritz? Da Fujifilm.it. Stefanuccio, ma ci sono menzioni qui, per caso? No, oggi non ci sono menzioni. Allora, in realtà l'unica cosa che dovrei menzionare per simpatia è sta musica di sottofondo, che in questo momento non si sa bene perché non si sente, ma ripartirà, che è Bruno. Ma in realtà se è dal computer degli ospiti è in play. È in play. Ah, sì. Ecco perché non partiva, perché avevo tirato su AUX 3. È un piacere essere stato d'aiuto anche in veste com'è. Di conduttrice. Comunque questo qua è Spawning, il nuovo disco di Bruno. Cioè in realtà il suo cognome è Pitruzzella, e siccome non riesco a pronunciarlo è Bruno e basta. E dopo questa meravigliosa introduzione finito. No. È che sei dietro il monitor, non ti vedo. Chitarra sola ma non isolata, quella di Bruno, che debutta da solista con Spawning, un lavoro che nasce dall'esigenza di un percorso improprio, ma non mi mancano 4 gradi per cui non riesco più a leggere. Vengo di là. Ma soprattutto da riflessioni e meditazioni su tutto ciò che circonda la musica, a partire dalla sua attività di istruttore subacqueo, che ha dato anche il titolo all'album. E anche Bruno è insieme a noi a Coxo Spaziale 286. Spawning è pubblicato da Almendra Music e troverete naturalmente da domani su www.coxospaziale.blogspot.com tutto quello che vorrete sapere su di lui. Così come troverete... Cosa troveremo? Ma no, stiamo facendo l'ascolto di Bruno? Ah no, scusa, no, beh, cioè, ti si sentiva tale quale, parla pure. No, no, pensavo di aver rovinato un momento. Io invece volevo ritornare perché... Allora, scherzo, questo Cox... Siamo fantastici. Ha l'onore di presentare in diretta da noi Amori 4.0, viaggio nel mondo delle relazioni. È un testo, una delle cui relatrici, Letizia Rotolo, Letizia Rotolo, è venuta ad introdurci. Sì. Ha fatto... Parla anche di arte, il nostro... Amore e arte? 4.0. Sì, abbiamo un contributo di una critica d'arte di Mantova, sì? Che si chiama Elena Alfonsi, che paragona tre opere del bacio. Ah! Il bacio, stavo guardando adesso, il bacio di Hayez, il bacio di Klimt e quello di Picasso. È un bellissimo... Qual è quello di Picasso? Non mi viene in mente. Comunque va bene. Vabbè, di Pablo Ruiz e Picasso. Lo pubblichiamo domani per la ricerca? Più comunemente noto come... è del 1900... giusto visivamente non ce l'ho presente. 1925, quelli di Hayez e di Klimt sono dovunque. Sì, cioè, quindi, non fai a tempo a entrare all'IKEA che li vedi. Io forse ce l'ho presente, però vorrei dire una sciocchezza così mi tiro indietro. Con la nostra critica d'arte faremo una presentazione a Mantova a febbraio. Ottimo. E comunque 4.0. Un altro elemento che va ad arricchire un già ricchissimo indice di saggi e testi. Prima ci hai fatto un'introduzione sulle varie sezioni, sì. Ed eravamo arrivati al magico momento delle pubblicità nel parlare con uno dei due autori che sono qui ospiti, certo, insieme a noi. Ti abbiamo interrotto, scusami. Vinicio Berti, che ci stava parlando del narcisismo. Di un tuffo di narciso dentro l'acqua. Allora, in effetti il narcisista è come una stella ai neutroni, è un buco nero, nel senso che è talmente impegnato nel proprio godimento personale, la ricerca di stare bene, sentirsi bene e di voler essere addirittura, fra virgolette, naturalmente che la parola è impegnativa, felice, che non riesce mai a darsi verso l'esterno. Per questo ho fatto questo esempio un pochino astronomico. E di conseguenza il progetto è sistematicamente sempre un fallimento, perché ovviamente è il caso più grave di fra le varie tipi di patologia. Questo per esempio è uno che è controindicato per un trattamento psicanalitico nella maggior parte dei casi, poi ovviamente ci sono delle eccezioni. E allora io ho riportato un caso clinico che mi è capitato di una persona che è una persona anche conosciuta, naturalmente qui ho cambiato tutti i riferimenti in maniera che solo lui si potrebbe riconoscere. Ma qui in radio ci puoi fare nome e cognome, assolutamente, giusto? No, assolutamente no. Questa persona qui era impegnata, una mia paziente, in una relazione amorosa, ex paziente, che poi mandò lui perché era un momento di crisi, e naturalmente lui era molto abile perché i narcisisti delle volte sono anche intelligenti, quindi manipolatori, spesso. E molto spesso raggiungono anche delle posizioni, di comando, di potere. Però è evidente che tutto quello che diceva, siccome ha raccontato a me l'altra faccia della medaglia, la prima avevo percepita da questa signora, e di fatto non interessava assolutamente niente di lei, interessava semplicemente usarla per degli scambi amorosi. Ovviamente, no? Con una coppia, un'altra coppia. Questo è un caso abbastanza emblematico, perché lui è una persona di successo, perché lui ha messo su famiglia in un modo tutto particolare, non era mai disponibile né per la compagna, né per la moglie, né per la figlia, se vuoi fare un lapsus, e perché era sempre, per esempio, al telefono, perché sempre cercato di continuo. La cosa che mi rimane impressa, e poi così che concludo questa mia parte, che una volta ho assistito molti anni fa, diversi anni fa, 20 anni fa, al Dipartimento di Psicologia qui di Bologna, a una conferenza del professor Batacchi, che non c'è più, che era un professore appunto del Dipartimento, che disse: questa società, secondo alcuni studi, non mi ricordo se in quel caso erano americani, statunitensi ovviamente, è qualificata a tre aspetti, cioè è narcisista, virtuale ed egocentrica. Naturalmente l'egocentrico in teoria lo potremmo risparmiare, perché se è narcisista è egocentrica per forza, perché le due cose collimano, e di conseguenza ovviamente è una società, la parte ovviamente che si esprime così non sarà totalmente così, ma estremamente, diciamo così, problematica per tutte le relazioni sociali, perché noi abbiamo bisogno di umanesimo e non di narcisismo, abbiamo bisogno di ascolto dell'altro e non di chiusura. Sì. E qui c'è un passo che prima leggeva Letizia Brevissimo, se volete ve lo leggo, che non è, sì, non è mio, però Valeria Bianchi Mia ha fatto una citazione da Jung, che dice, è piuttosto alla fine del suo articolo, che è interessante, che parla di amore, psiche, eros, animo, anima e animus, è piuttosto l'incapacità di amare che priva l'uomo delle sue possibilità. Questo mondo è vuoto solo per colui che non sa dirigere la sua libido, che poi sarebbe energia vitale naturalmente, sulle cose e sugli uomini, e conferire loro a suo talento vita e bellezza. Ciò che dunque ci costringe a creare, traendolo da noi stessi, un surrogato, quindi un surrogato è l'amore, non è una carenza esterna di oggetti, in psicanalisi oggetti sono anche le persone naturalmente, ma la nostra incapacità di abbracciare con amore una cosa che stia al di fuori di noi. È Jung del, mi sembra, 1912. Grazie per aver condiviso. 4.0. Vinicio. Queste vocine di sotto. Sono le specialità del mio co-conduttore coxico, Mr. W. Pasquini. E invece, Roberta. Allora, dopo che ha parlato Vinicio, sento sempre un po' in difficoltà, perché Vinicio ha una proprietà di linguaggio e di termini. È fiorentino. Sento sempre un po'. Ti sento sempre un po' in difficoltà. Di contro, mi veniva un po' questo, per collegarmi a Vinicio. È vero che Narciso si specchia nel lago e casca nel lago in cui annega, ma il lago poi di controparte si specchia negli occhi di Narciso in un qualche modo, no? Questo per dire che quando c'è un narcisista, spesso da un'altra parte, dall'altra parte, sì, c'è una parte dipendente, con una sensazione di bisogno d'amore così tanto importante, così tanto necessaria, che in qualche modo lo porta ad avere una relazione dipendente da Narciso, per cui quel poco che Narciso gli dà e che gli fa sentire importante, la nutre e la tiene lì, no? C'è sempre una controparte. Abbiamo un messaggio. Saluti dal miracolato di Lagaro. Tu sai chi sia, Fedra? No. Come no? È Riccardo Lolli. È stato miracolato praticamente. Lagaro? Cavoli, certo, lui viene da Lagaro. Lo salutiamo tanto perché, vabbè, certo, quando perché torna a trovarci adesso quando riesce a rimettersi in piedi in questo momento è ancora un attimo sotto sopra, ma ce la facciamo. Ma che bello, quindi ci l'ho sta visto ascoltando. Benissimo, ci sta ascoltando, si sta riprendendo e in questo momento dedicato ascolta il cox, esatto. Altro che miracolato. No, infatti, rischia, esatto, duro. Rischia una ricaduta. Sì, infatti, salutiamolo caldamente. Sì, caldamente, tutti insieme. Saluti, ciao. Ecco, adesso ha spento. No, quindi come stavamo dicendo? La parte dipendente, dai. Sì, no, stavo parlando che dall'altra parte una diade, no? La controparte. Esiste sempre, quando c'è un narcisista, dall'altra parte esiste sempre qualcuno che poi decide di stare con il narcisista. In un qualche modo, no? Se io ho una relazione, cioè. Esatto. E da solo il narcisista non ci sta. Così come non sta da solo, però, la personalità dipendente. Per cui questo era un po' una parte. Sì, io infatti, quando ho scritto il libro, sulla parte che ho scritto io è una piccolo capitolino sulla terapia di coppia. Ah! Sì, perché... Te lo volevo chiedere, ero già lì che dicevo, ma come li... cioè, perché separatamente... Separatamente ci si lavora, insieme è ancora peggio. Mamma mia! No, io invece ho parlato proprio di questa metodologia che si chiama schema terapia di coppia, ed è una metodologia molto interessante, perché in realtà va a scoprire quelli che sono i bisogni di entrambi i partner, perché nella realtà dei fatti un narcisista ha bisogno di sentirsi amato, di sentirsi visto per quello che è, e dall'altra parte il dipendente ha il bisogno di sentire l'accettazione, di sentirsi in grado di essere autonomo. Per cui nella relazione queste due cose vanno in scontro, nella terapia di coppia queste due cose invece devono essere elaborate in maniera simultanea, in modo che chi si sente bisogno di autonomia riesca a ritrovare in sé la capacità di essere autonomo, di essere libero, di essere se stesso, di amare in maniera onesta e sincera il narcisista, e il narcisista lavorare sul suo bisogno di in qualche modo di sentirsi capace di amare, di sentirsi capace di essere amato. C'è Gifo che chiede se la voltolina è single di nuovo. Vedi, a proposito, no, la voltolina non è single, la voltolina è venuta a vivere a Bologna perché si è trasferita dal moroso, questo lo stiamo dicendo in diretta, e quindi è così. E quindi è così, Gifo, mi dispiace. Con questa musichina giusta per mettere. Esatto. Loro fanno cosa? Insomma, prendo tutto e come San Giuseppe mi trovo a rotolare per le scale. Cercando un altro Egitto, di fuori tutto calmo, la strada era deserta, mi dico meno male, è tutto uno scherzetto. Sollevo gli occhi al cielo e vedo sopra un tetto mia madre inginocchiata in equilibrio su un camino. La strada adesso è piena di persone, mia madre è qui vicino. Molto bene, eccomi qua. Oh, povero Gifo, come starà? Fra l'altro lui è successo poi? Si è amareggiato. Vabbè, si è amareggiato, ma no, si è mareggiato, cioè nel senso che è spiaggiato, sarà? Dove sei spiaggiato, Gifo? Adesso sentiamo, che aspettiamo che ce lo racconti. Buona creatura, dispiace, anche se ma infatti lui è un grande corteggiatore e sostiene molto a distanza tramite le pagine di Facebook, questo fa capire che ha più di 30 anni. Sei più di 40. No, non credo, abbastanza giovane. Sai che no, sono? Giovanotto. Vabbè, ma adesso non ci confondiamo. No, esatto, non parliamo di Gifo, anche perché qua il tempo stringe, dobbiamo ancora dire un sacco di cose. Bravissimo, mi piace. Chiedi a Fedra se è single, risponde lui. Ma l'ho detto prima. Appunto, ma lui non stava attento. Ah, si era dimenticato del toxo, mi ha scritto. Va bene. Allora, a questo punto. Sì, ma sei single, Fedra? No. Ma no, non più. Non più. Allora, ritornando a noi, Gifo, è stato bello, però dobbiamo riconcentrarci che qui. È stato bello, ti chiamo io. Era esatto. La frase del ghosting. No, comunque, Voltolina, adesso non cominciamo a fare così, perché tra un po' tocca a te. Io sono qua e mi diverto, quindi. No, perché c'è un bellissimo nesso, perché fra l'altro in questo Amori 4.0 si parla anche di yoga. Si parla di yoga, no? E infatti c'è un intervento di Diana Vannini, di una psicoterapeuta, arte terapeuta di Rimini, che è un'esperta di yoga e fa il suo intervento su uno sguardo tra Oriente e Occidente, in cui nel quale in realtà le neuroscienze si ritrovano nel concetto della psicologia yoga, che si identifica con il termine samskara. Voltolina annuisce, le passo la parola. Voltolina annuisce perché il termine di samskara non è. Non sono digiuna, cioè chi pratica yoga, soprattutto chi lo studia, non è digiuno di questa terminologia. E le connessioni, i collegamenti fra Oriente e Occidente. Quando studiavo, io adesso sono da ventina d'anni che insegno yoga, quindi insomma sono un po' stagionata come studi. Però mi ricordo che all'epoca ero una grande appassionata di Jung. E Non è digiuna, no, ma proprio in generale. Comunque, magno. Allora, ci sono delle cose curiose dei praticanti di discipline orientali che è una cosa di una 10-15 anni fa, quasi tutti, se non avevi studiato qualcosa di Jung, non sopravvivevi all'interno dello studio dei testi. Un po' perché era il nostro modo, nostro intendo collettivo, della maggior parte delle persone che ho conosciuto all'epoca, di arrivare a qualcosa che era così lontano. Jung ti tracciava un percorso, un passaggio, ti dava degli strumenti, dopodiché andavi avanti, insomma. Ora che queste discipline sono molto molto molto più diffuse, noto che c'è molta meno conoscenza da parte dei praticanti anche degli aspetti psicologici. Si studiano di più le neuroscienze. È vero. Gli aspetti clinici, cioè tecnici, come un po' più della biochimica, non siamo interessati moltissimo agli aspetti somatici. Cosa mi volevi dire? A questo punto volevo cogliere la palla al balzo, la palla yogini chak, e per chiederti di presentare l'introduzione, di presentare un'introduzione al seminario che terrai il 23, perché si svela finalmente uno degli aspetti base di Laura Voltolina, che oltre abbiamo tenuto nascosto fino adesso, sì, per anni al pubblico del Coxo, e oggi al 286esimo Coxo, oltre che parlare di Amore punto zero, sveliamo anche la realtà della Voltolina, una delle facce della Voltolina. Esatto, una delle facce della Voltolina, che è insegnare yoga. Sì. Ed insegnare yoga, appunto, ma in maniera abbastanza particolare. Infatti il lavoro che stai presentando adesso qui a Bologna mi ha colpito particolarmente, anche a me, che sinceramente lo yoga lo evito sempre in maniera molto chirurgica, lo sappiamo. E però questo percorso, questo tipo di osservazioni mi ha interessata tanto che ti ho invitato qui a raccontarcelo. Il lavoro che presento qui a Bologna è un lavoro di yoga per la donna, e è un progetto che ho da già 12-13 anni, e comunque io ho studiato per 4 anni, 20 anni fa, con una maestra italiana che già trattava dei temi del femminile, quindi sono cresciuta, come dire, fra virgolette, nello yoga, nel mio mestiere, nella disciplina, già con un occhio al femminile. Me la sono sviluppata questi semi che lei ha lasciato, me li sono sviluppati, li ho cresciuti. Faccio un esempio, adesso vi racconto un episodio che penso sia, poi qui c'è una stragrande, adesso voi siete la quota azzurra, ma sicuramente ci potete capire, le altre sono tutte donne, e episodi simili saranno capitati, penso, a tutte, da così a peggio. Però io mi sono trasferita recentemente a Bologna, e avendo traslocato a casa di mio moroso, che ha una lavatrice nuovissima, fighissima e stellare, nuova, mai usata, tipo mai usata, la mia lavatrice, altrettanto nuova, un po' più usata, ma comunque ancora in garanzia, è stata traslocata a Bologna, perché poi pensi, sì, la vendo, ma intanto comunque mi devo fare le lavatrici, la vendo quando arrivo a Bologna, quindi la metto online, arrivo a Bologna, trasloco, faccio le foto, la metto su un sito di compravendita online, il signore che l'ha acquistata prende contatti, mi spiega che è per sua moglie, mi chiede quanto dura la garanzia, mi chiede come si fa a montarla, se vai, io gli spiego, io non ci credevo, io gli spiego come si fa a montare la lavatrice, perché in effetti non è una cosa difficilissima, ma la sapevo fare pur nella mia poca concretezza di bricolage. Ci scambiamo il numero di telefono, lui mi chiama, gli dico, guarda, cioè, siccome mi sembrava un po', cioè, mi richiede di nuovo come si fa a montare la lavatrice, allora mi preoccupo, dico, ma lo sai quanto pesa una lavatrice? Perché pesa tanto, quindi se vieni devi venire con, hai presente quante gradi, perché ti ho messo le misure nel sito, vieni con un'auto, metti, imbottisci, butta giù i sedili, imbottiscili, perché se prende troppe botte una lavatrice nei traslochi, che si sappia, il cestello poi non funziona tanto bene, non è arriva con qualcuno, perché se hai delle scale da fare, sì, hai delle scale da fare, sì, allora procurati, sì, un carrello, cioè gli spiego una serie di cose, non ci credevo che gli stavo spiegando, cioè io, però gliele devo spiegare. Lui arriva miracolosamente, è arrivato ovviamente da solo, perfetto, aveva giusto buttato giù i sedili, non aveva ascoltato niente di quello che le avevo detto. Miracolosamente c'era mio moroso, che poteva non esserci perché la lavatrice era mia ed era, e riescono a montare la lavatrice in auto, e mentre sale in auto, cioè mentre stava facendo questo lavoro qui, comincia a pensare a voce alta, sì, mo devo chiamare mio fratello, in effetti Ma guarda un po'. Dopodiché tira fuori i soldi, siamo io e mio amoroso seduti, cioè seduti in piedi vicini, guarda me con i soldi in mano, poi si sposta lì da lui. Da lui. Certo. Io e mio amoroso rimaniamo, cioè ridiamo di questa cosa, lo salutiamo, mi giro verso il mio compagno e gli dico: benvenuto nella vita di una donna. Mediamente ti succede così per tutto. Maschio, non ascolta. Lo yoga è la stessa cosa. Lo yoga è nato in Oriente, l'hatha yoga, la parte corporea che noi pratichiamo per la maggior parte in milioni di varianti, più o meno ginniche, più o meno atletiche, più o meno dimagranti, eccetera, eccetera, che noi pratichiamo in Occidente, è uno yoga nato, cioè sono forme corporee nate all'inizio del secolo scorso, più o meno all'epoca di Jung, un po' prima, ma insomma comunque in Oriente, in India, da insegnanti uomini per allievi uomini, e noi ce la siamo presa così, bevuta così, ce la applichiamo, ma la maggior parte dei praticanti di yoga qui sono donne, la maggior parte delle insegnanti sono donne, e non abbiamo la più pallida stracavolo di idea di cosa possono fare quelle cose lì su un corpo femminile. Quindi Il lavoro di yoga per la donna è un lavoro, non vado a prendermi ovviamente le 10 milioni di posizioni e analizzarmi, sarebbe un lavoro magari interessante, ma completamente, cioè diventerei pazza a farlo, non è nella mia natura. Quello che mi interessa è sviluppare nelle persone che vengono, in questo caso sono donne, mi piacerebbe farlo anche per gli uomini, ma non sarebbe avanti, sviluppare la sensibilità giusta che ti fa dire: ok, questa cosa in questo momento della mia vita, ci ho avuto una vampata stamattina, no, questa cosa non mi fa bene in questo momento, sono in ovulazione, no, questa cosa, ah no, ma senti l'ovaio in questa posizione, questa respirazione, questa meditazione, la modifico, cioè di prendere abbastanza fiducia in te. Sta per finire la trasmissione. Per poter vivere meglio. Brava, bene. Grazie. Però c'era, facciamo in tempo a fare l'ultima domanda per cui si era prenotata ancora Laura Voltolina. Ah, sì. Certo, a 30 secondi per rispondere. Perché amori 4.0? Ero rimasta al 3.0 io. Sì, però noi vogliamo andare oltre, perché noi siamo anche dei futurologi, no? E quindi facciamo un po' le previsioni, cioè astrologia. No, futurologo nel senso quello che sono le tendenze per i prossimi 10-20 anni, quindi amore 4.0, anche perché era abbastanza inedito. E quindi è una porta che dal presente si apre verso il futuro, che probabilmente con gli strumenti che stiamo cercando di divulgare tramite il vostro lavoro magari saranno anche tempi migliori. Saranno tempi migliori e comunque sospirone. Si spera, no, già una parola di speranza. Sì, no, mi viene da pensare che c'è il ghosting, c'è il vampiro, ci sono gli zombie, c'è il web, c'è la dipendenza. Cioè, però questo libro, insomma, c'è anche l'amore che cura. Però c'è anche l'amore che cura, c'è l'amore che torna. E poi tutte queste cose sono cose che c'erano già, ma non le sapevamo riconoscere. Quindi adesso le riconosciamo, le prendiamo per quello che sono e poi riusciamo a sopravvivere. Fedra, vuoi ringraziare i nostri ospiti uno per uno, come sai fare tu? Allora, io ringrazio, vado in circonferenza. Da sinistra verso destra. Vinicio Berti. Salve a tutti, grazie a voi. Roberta Ricci. Grazie, buona serata a tutti. Letizia Rotolo, che ho detto finalmente giusto. Laura Voltolina. Fedra Boscaro. E Stefano W. Pasquini. Grazie a voi. Con questo grazie a tutti voi. Livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Darling, you.